musica house, dance, beat forte. 1, 2, 3, 4. Cerchiamo di farlo bene. Ricordatevi che se io vi dico un marchio, ad esempio Renault, dovete fare una mossa a caso e fate attenzione al finale MG, perché dobbiamo saltare per 3 volte. Fatelo bene. Marchio gioca. Renault. Peugeot. Fiat. Lamborghini. Toyota, Kia, Skoda, Volvo, Seat, Cupra, Volkswagen, Mercedes, molto bene ragazzi, ora più veloce perché i comandi cambiano 2 volte. Se riuscirete a fare le mosse di tutte le aziende, da lì in poi potete giocare solo con la musica, perché voi sarete il campione di Marchio Gioca.